passa il tempo, passa la tua età, ma non ti tenta di scappare. I tuoi rimorsi passeranno, sai, puoi restare sempre come sei. Passa il tempo come un treno, va, il suo carico di vita, c'è sempre un ultimo vagone, sai, che per chi non c'è salito mai, mai, bruciare non puoi, i giorni belli e quelli che hai lì davanti a te. Passa il tempo è andato via, è solo fumo già fumato, sai, annebbia l'aria e non respiri più, ma una finestra puoi aprire tu. Tu aspettare non puoi, il tempo passa e la tua età non può passare così.